GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nuova legge quadro regionale sul commercio, primo confronto con le categorie, vedrà la luce la prossima primavera. Sanità, dipendenti di Asugi verso lo sciopero, oggi assemblea a Monfalcone, i sindacati, un errore, la distribuzione delle ex risorse aggiuntive. Case di riposo, varate le regole per i finanziamenti, c'è l'adeguamento del direttore sanitario. Protesta dei trattori, domani i rappresentanti del comitato saranno ricevuti in regione, si decidono le prossime manifestazioni. Udine, dibattito in comune sulla nuova zona a traffico limitato che sarà più ampia. Clauzzetto ha rinviato l'intervento sulla frana, le piogge dei prossimi giorni potrebbero rimetterla in movimento. 10 febbraio la presentazione delle iniziative a Trieste, anche il treno del ricordo tra i luoghi delle celebrazioni. Biathlon, Lisa Vitozzi subito protagonista ai mondiali in Repubblica Ceca. Oggi la staffetta mista triestina ha presentato il nuovo allenatore Roberto Bordin. 7:19 minuti, mercoledì 7 febbraio, buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Come di consueto uno sguardo alla situazione del tempo sul Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza coperto, variabile sul Tarvisiano, queste le temperature delle 6, a Trieste 9 gradi, a Gorizia 7 gradi e mezzo, a Udine, a Pordenone 6 e mezzo, nell'area montana a Tarvisio e Tolmezzo 5 gradi, a Sappada 0, il dato però è delle ore 5, a Forni di Sopra 2 gradi e 5 decimi, sul Piancavallo 5 decimi di grado sopra lo zero, sul Lussari e sullo Zoncolan meno 2,5, sulla costa a Grado e Lignano 9 gradi. Le previsioni per oggi, sulle zone montane più interne ed in quota, specie nel Tarvisiano, cielo variabile, su tutte le altre zone cielo da nuvoloso a coperto con foschie e saranno possibili deboli piogge, specie sulla fascia orientale, possibile nevischio sulle Prealpi Giulie oltre i 1200-1400 metri di quota circa. Tra un anno e mezzo il Friuli Venezia Giulia avrà una nuova legge quadro per commercio e turismo. L'iter è partito con l'illustrazione delle linee guida alle categorie interessate. Sentiamo. Entro giugno 2025 la Regione dovrebbe dotarsi di un unico testo di legge per turismo e commercio. Dovrebbe diventare la norma di riferimento accorpando le 14 leggi già esistenti e gli 88 regolamenti per un totale di 200 articoli. Tra le finalità della razionalizzazione, rendere più facile per commercianti, artigiani e operatori turistici capire a quali finanziamenti possono avere accesso e alleggerire i costi della burocrazia per un mondo, quello del terziario, in continuo mutamento. La prima bozza vedrà la luce a novembre. L'iter è iniziato alla presenza di sindacati e associazioni di categoria che plaudono ad un metodo all'insegna della condivisione. Gianluca Madriz, presidente regionale di Confcommercio. Stiamo andando nella giusta direzione. L'abbiamo fortemente voluta come associazione di categoria regionale. Abbiamo sempre chiesto all'assessore Bini di poter innovare, snellire innovando. Da più parti si è chiesto di dare priorità nel testo alla valorizzazione del commercio nei centri urbani e a strumenti per favorire l'imprenditoria giovanile. Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato FVG. È importante, diciamo, che subito nell'immediato si trovi delle soluzioni per garantire la staffetta così generazionale, perché queste attività, sia nostra dell'artigianato di servizio e quelle del commercio, oggi soffrono di questa mancanza di staffetta generazionale. Dai sindacati l'auspicio che la nuova legge faccia da apripista anche a livello nazionale per un cambio di passo su qualità del lavoro e retribuzioni. Matteo Zorn, segretario regionale della UIL. C'è un tema salariale, perché nel turismo e commercio 7 lavoratori su 10 sono impiegati in questi settori e i contratti sono scaduti. Credo che può partire anche dalla regione, magari arrivando alla conferenza Stato-Regioni, dei temi più sindacali, più sociali, e quindi quella della buona retribuzione, salari adeguati, lavoro dignitoso. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. I temi della sanità, sindacati a sostegno della vertenza dei lavoratori di Asugi per l'assegnazione delle ex risorse aggiuntive regionali. Alle 13:30 si riunirà in assemblea all'ospedale di Monfalcone il personale dell'area isontina, durante il quale la UIL, FPL e il NURSIND, che rappresentano oltre i 2/3 dei lavoratori, chiederanno il mandato per proclamare lo stato di agitazione e l'eventuale successivo sciopero. Per la CGIL la perequazione salariale tra lavoratori e lavoratrici del servizio sanitario regionale è un obiettivo condiviso visibile se perseguito verso l'alto, puntando a un innalzamento complessivo del livello delle retribuzioni e della qualità del lavoro. L'esatto contrario, dice ancora il sindacato, di quanto ha fatto l'assessore Riccardi con una distribuzione dell'erar che ha evidentemente colpito i lavoratori dell'area giuliana e isontina. Nelle case di riposo la figura del direttore sanitario, che a partire dalla pandemia è diventata obbligatoria per l'accreditamento, è diventata centrale nella gran parte delle strutture della regione, anche per quelle che non hanno ancora riempito la casella. E intanto ecco le nuove tabelle per i finanziamenti. Via libera dalla Regione, rimborso di 60 euro lordi all'ora per le strutture per anziani che assumeranno un direttore sanitario, figura divenuta obbligatoria per l'accreditamento. La nuova tabella di finanziamenti per le residenze protette prevede una dotazione di 1,5 milioni di euro in legge di stabilità, spiega l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, una copertura finanziaria attesa dalle strutture in gran parte impossibilitate a sostenere la spesa di un direttore sanitario. La Quiete di Udine ce l'ha già da un anno, al costo di circa 50.000 euro coperti dalle rette. Ben vengano gli aiuti regionali, afferma il presidente della ASP Alberto Bertossi, che intanto segnala un netto miglioramento nella programmazione dei servizi e nel coordinamento del personale grazie proprio al direttore sanitario. Il presidente dell'ASP ITIS di Trieste, Aldo Pajor, annuncia di aver già individuato il candidato per tale ruolo e che sarà assunto entro l'estate, ritenendolo strategico anche a fronte di un crescente peggioramento delle condizioni cliniche degli ospiti. Commenti decisamente positivi anche dal presidente delle strutture UNEBA del privato sociale Matteo Sabini, che richiama però l'attenzione sull'assistenza medica di base dentro le residenze. Per Sabini il direttore sanitario qualifica ma non sostituisce la gestione della parte clinica in mano ai medici di medicina generale, con le note criticità della situazione attuale. Sul punto il segretario regionale del sindacato Medici Italiani Lorenzo Cociani, che pure considera necessaria la figura del direttore sanitario, cita l'accordo stretto da poco con Asugi, che prevede che nelle strutture possano operare medici di famiglia di riferimento, una soluzione tampone nell'attesa che la Regione, auspica Cociani, trovi una soluzione strutturale per tutto il territorio. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Resta critica la situazione dei medici di medicina generale. Tra il 2019 e il 2021 in Friuli Venezia Giulia il calo è stato del 5,3% a causa del progressivo pensionamento di medici non sostituiti. Delle possibili soluzioni si discuterà questa mattina a Gradisca in un incontro pubblico promosso dal Comune, che si svolgerà in Consiglio Comunale alle 11. Interverranno il direttore del distretto Alto Isontino di Asugi, Giacomo Benedetti, e la sindaca Linda Tomasinsic. L'importanza e il ruolo dei vaccini nella tutela della salute pubblica spiegati ai ragazzi del quarto e quinto anno delle scuole superiori. È l'Univax Day dell'Università di Udine, una mattinata di formazione arrivata alla sua sesta edizione che si terrà al Polo Economico in via Tawandini alle 9.30. L'incontro è realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia, della quale fa parte Barbara Frossi. Sentiamola in questa intervista. L'Univax Day nasce con l'esigenza di fare un'informazione semplice e chiara che raggiunga i nostri ragazzi, per dargli gli strumenti per poi muoversi nel mondo come persone consapevoli e per cercare di approntarsi alla tematica dei vaccini, che è una tematica per ragioni complesse che è sempre vista con una certa diffidenza, in maniera serena e consapevole. Quali sono i dubbi e le perplessità che i ragazzi espongono nel corso di questi incontri? Ci sono ragazzi che si approcciano all'argomento per la prima volta, quindi fanno domande molto semplici, come funziona un vaccino, perché mi devo vaccinare, e altre che sono domande di persone che si sente che hanno già affrontato l'argomento, magari a casa, magari a scuola, qualcuno anche che fa domande perché ha percepito la presenza di notizie contrastanti. Sono un po' preoccupati da questa confusione nelle informazioni che possono raccogliere nei normali mezzi di comunicazione, e noi cerchiamo di rispondere partendo dal punto di vista scientifico, da quello che si fanno nelle università, negli enti di ricerca. Perché secondo lei c'è stato poco interesse, in pochi hanno aderito all'ultima campagna di vaccinazione contro il Covid? Non ho la risposta, posso dare una mia opinione personale. La popolazione è stata stanca probabilmente di essere anche bombardata da tante informazioni poste in maniera aggressiva alle volte, e oltre alla percezione errata che il virus circoli circolante si sia attenuato. Si è attenuato, ma è ancora circolante. Noi dobbiamo prestare attenzione, non dobbiamo mai sottovalutare quello che ci accade intorno. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Parte l'attività ufficiale di 4 nuovi sportelli che la CISL regionale e l'Associazione Oltre le Frontiere mettono a disposizione dei cittadini stranieri per la tutela dei diritti e il supporto a Trieste, Monfalcone, Udine e Pordenone. Il sindacato presenterà l'iniziativa questa mattina a Trieste nel Palazzo della Regione. Al Tribunale Amministrativo Regionale oggi due questioni molto discusse: le centraline di cogenerazione previste sul percorso dell'oleodotto transalpino, contro le quali c'è un ricorso di alcune associazioni. In occasione della prima udienza è prevista una manifestazione alle 10 a Trieste davanti al Consiglio regionale organizzata dai Fridays for Future. L'altra questione è quella dei centri culturali islamici a Monfalcone. In questo caso è attesa una pronuncia del TAR sulla richiesta di sospensiva della delibera del sindaco. La protesta dei trattori saranno ricevuti domani in regione i rappresentanti friulani del comitato di agricoltori e allevatori. Nel settore si discute intanto sulle modalità di prosecuzione delle iniziative di piazza. Anche in Friuli Venezia Giulia tiene a banco la protesta degli agricoltori, anche se divisa in due anime. Questi sono giorni di attesa sul prosieguo delle manifestazioni e di assemblee che decideranno come continuare. Per i manifestanti di sabato scorso, nelle prossime ore saranno decise le azioni da intraprendere, ha detto Alessandro Gallo, tra i portavoce della protesta. L'obiettivo dichiarato è portare una delegazione di agricoltori a Roma. Diversa la strategia degli agricoltori friulani aderenti al comitato presieduto da Massimo Lauzana, che hanno manifestato il 29 gennaio scorso. Giovedì saranno ricevuti nella sede della regione a Udine dall'assessore Stefano Zanier. A questi, dice l'assessore, daremo ascolto, ma poi sento che la protesta tende a deviare verso altri temi, altre metodologie sulle quali non mi esprimo. Stefano Zanier, assessore alle politiche agricole. Il primo passo è quello, rispetto a coloro i quali ci hanno chiesto anche un incontro, è quello di ascoltare le loro rimostranze, che se confermate nei termini che sono stati fino adesso evidenziati, ovvero legati a politiche europee, a regolamentazioni e regole europee, hanno anche una loro base di fondamento sulla quale l'intero sistema delle regioni e anche lo Stato italiano si è più volte espresso. In questo momento bisogna discutere veramente delle regole, di come vengono applicate queste regole europee, più che delle questioni meramente o esclusivamente economiche. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La carne coltivata sarà al centro di un incontro organizzato ad Aiello del Friuli da Europa Verde, i Verdi della provincia di Udine, insieme al locale circolo del Partito Democratico. Gli esperti chiamati a intervenire sono Silvia Stefanelli, consulente per l'Unione Europea sui cambiamenti climatici, e Michele Morgante, docente di genetica dell'Università di Udine. L'appuntamento in sala civica alle 20:30. Le opportunità offerte dalle comunità energetiche rinnovabili, le CER, al centro di un nuovo incontro informativo dedicato alla cittadinanza. È previsto a Gorizia in sala Dora Bassi alle 17:30. Saranno descritte le principali caratteristiche delle comunità, i loro vantaggi e gli step necessari alla loro costituzione, in modo da fornire un quadro chiaro e comprensibile di questo strumento utile per la transizione energetica nel territorio regionale. A Udine si discute di reintroduzione e ampliamento della zona a traffico limitato, tra le ipotesi anche le maggiori possibilità per il carico e scarico. Confronto in municipio con le categorie. ZTL, zona traffico limitato, aree pedonali, disciplina dello scarico e carico delle merci, da sempre anche a Udine, sono argomenti sensibili nei rapporti tra comune, commercianti e rappresentanti delle categorie economiche. Li hanno incontrati il vice sindaco Venanzi e l'assessore alla viabilità Marchiolla a Palazzo d'Aronco. Gli esiti del confronto saranno compendiati nel futuro piano del traffico, che entrerà in vigore a primavera. Di fronte ad una situazione che spesso è di liberi tutti, vogliamo semplificare e migliorare la circolazione, ha sottolineato Venanzi, con una posizione più rigorosa, regole chiare per tutti, con la massima disponibilità a venire incontro alle esigenze di chi lavora. Salvaguardiamo i passi già messi in opera, gli ha fatto eco Marchiolla, ma apportiamo significativi miglioramenti con l'ampliamento della ZTL e una semplificazione delle regole. Anche l'area pedonale vedrà rimodulati in parte i suoi confini per evitare i cosiddetti cul-de-sac e identificare aree più omogenee. Soddisfatto il rappresentante di Confcommercio Rodolfo Totolo per l'ipotesi di una nuova ZTL e l'ampliamento degli orari di carico e scarico. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Slittano i lavori per il ripristino della strada provinciale a Clauzetto. C'è il timore che la frana si rimetta in moto con le piogge previste nel fine settimana. È necessario attendere il passaggio della perturbazione prevista per questo fine settimana prima di avviare i lavori di sistemazione della frana sulla strada provinciale a Clauzetto. Solo successivamente potrà essere compiuto in sicurezza l'intervento già programmato, la cui conclusione potrebbe avvenire entro fine mese. L'assessora regionale alle infrastrutture, Cristina Mirante, interviene con una nota chiarendo i motivi per cui al momento non è stato ancora possibile avviare i lavori di sistemazione della frana. Quest'ultima, infatti, come emerge dalle relazioni del geologo incaricato per il ripristino della strada, non si è ancora arrestata e le abbondanti piogge previste potrebbero riattivarla. Pertanto, al momento, precisa l'esponente della giunta, il tratto viario rimane chiuso e i lavori potranno partire non appena la perturbazione sarà passata. Le opere prevedono lo scavo al di sotto del fronte franoso, la posa di tombotti e tubazioni per regimare le acque e la sistemazione di sensori e semafori. Secondo Mirante, la strada potrebbe essere quindi riaperta entro la fine di febbraio. Clauzetto, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E dopo aver sentito la presa di posizione dell'assessore Mirante, il sindaco di Clauzetto, Giuliano Cescutti, ha espresso in una nota la sua massima delusione dopo che la strada era fisicamente libera dal cantiere della Protezione Civile già da fine giornata di venerdì 26 gennaio. Quando venerdì prossimo inizierà a piovere, concluderemo che 9 giorni lavorativi sono stati sprecati. Credo che almeno si potrebbe iniziare ad affrontare il tema dello studio della viabilità alternativa. Forse quella è un'attività non condizionata dalla pioggia, dice Cescutti. Mi auguro, è la conclusione del sindaco, che le previsioni di riapertura della strada a fine febbraio possano essere rispettate, con forti dubbi considerato che dovrà intervenire ancora la Protezione Civile con la posa delle condotte. La sola certezza è che se la strada non sarà riaperta per Pasqua, a Clauzetto saremo turisticamente morti. Sarà firmata la prossima settimana la concessione al comune di Cividale dell'ex caserma Francescatto. L'immobile e l'area di circa 5 ettari in cui si trova sono stati trasferiti dal demanio militare con l'ultima commissione paritetica alla regione, che ora lo cede al comune. Lo ha confermato l'assessore regionale Callari alla sindaca Bernardi ieri durante un sopralluogo alla struttura. Già con la legge finanziaria regionale del 2021, ha ricordato Callari, erano stati stanziati a favore del comune circa 100.000 euro per la realizzazione di uno studio di fattibilità. Ora che l'amministrazione comunale diventerà proprietaria, potrà procedere con la trasformazione dello studio di fattibilità in progettazione del futuro assetto dell'area. Ci sarà anche il treno del ricordo tra i luoghi in cui si celebrerà quest'anno il 10 febbraio. A Trieste è stato presentato il fitto programma. Un giorno del ricordo nel segno della prosecuzione di un cammino di riconciliazione e pacificazione che Trieste sta compiendo da oltre un decennio. La foiba di Basovizza, il magazzino 26, il treno che da Trieste attraverserà l'Italia fino a Taranto, i luoghi principali ma non gli unici per commemorare e approfondire storicamente la tragedia delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. Tante iniziative sono già in corso, altre proseguiranno nella settimana successiva al 10 febbraio. E sulla giornata del 10 resta l'incognita della presenza della Presidente del Consiglio Meloni. C'è chi la dà per certa, chi per probabile, chi si limita ad augurarselo, come l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi. Ma così ho sentito, però io non ho particolari notizie, bisogna chiederlo al sindaco. Io penso di sì, ogni anno sono venuti dei rappresentanti di altissimo livello, quindi io mi auguro che venga. Il 10 febbraio alle 10.30 la cerimonia a Basovizza, un'ora prima a Monrupino, il 10 e l'11 l'apertura straordinaria del Museo di Padriciano. Al magazzino 26, che ospita le masserizie del magazzino 18, una settimana di visite guidate. E poi sempre il 10, in stazione, l'inaugurazione di una mostra allestita in un treno. La tragedia delle foibe, ha detto Sardo Salbertini, non deve dividere italiani, sloveni e croati, perché le foibe inghiottirono italiani, sloveni e croati. Le foibe furono strumento di terrore, utile alla realizzazione della rivoluzione comunista in Jugoslavia. Ma molto resta da studiare e divulgare su quella che Sardo Salbertini ha definito la grande menzogna. Come e perché per decenni e decenni di questa, che era la più grave tragedia che avesse colpito lo Stato italiano, si è riusciti a non parlarne. È un argomento che non può essere semplicemente lasciato nell'archivio, va approfondito e va chiarito assolutamente. Trieste, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. 7.37, la pagina della cultura. Nel 1967 Pierpaolo Pasolini si recò in India per verificare se fosse realizzabile un film inchiesta molto particolare destinato alla rubrica Rai televisiva, TV7, intrigato da uno spunto che gli era stato suggerito dall'amica Elsa Morante. Il documentario Appunti per un film sull'India sarà proiettato al Magazzino delle Idee di Trieste alle 17.30 su proposta dell'ERPAC in collaborazione con l'Associazione Casa del Cinema di Trieste e sarà presentata dal professor Luciano De Giusti. Ascoltiamo un estratto del racconto dello stesso Pasolini tratto dal documentario. Io sto facendo un film, o meglio un documentario per un film che comincia con un episodio che riguarda un Maharaja, il quale Maharaja, prima dell'indipendenza dell'India, con i suoi elefanti, il suo seguito e la sua corte, va in giro per le proprie terre. Arriva in una landa desolata, coperta dalla neve, e qui vede delle tigri che stanno morendo di fame con i loro tigrotti. Preso dalla pietà, dona a queste tigri il proprio corpo per sfamarle. Qualcuno oggi in India sarebbe disposto a fare questo, secondo lei? Ogni cosa ha un proprio significato filosofico ed è tale significato che bisogna cogliere. Quindi il vero senso di questa storia è che bisogna essere compassionevoli. È una storia che ci fa conoscere, ci insegna l'arte di avere pietà. Dopo l'appuntamento di ieri a Trieste, sarà stasera a Udine il regista Francesco Munzi con il suo documentario Krypton, storia di alcuni ragazzi ricoverati in due comunità psichiatriche romane. La proiezione al Visionario è alle 19.45. Domani il regista sarà Cinema Zero a Pordenone. Sette paesi del continente asiatico in 120 fotografie danno vita a una mostra che è stata inaugurata a San Vito al Tagliamento. 120 immagini fotografiche che raccontano sette nazioni del continente asiatico nella visione del fotografo padovano Massimo Saretta, che le ha raccolte in più di 20 anni di viaggi. La mostra Asia, appena inaugurata nella sede espositiva della Chiesa di San Lorenzo, è curata da Gastone Scarabello ed è patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Comune di San Vito al Tagliamento. Il fotografo Massimo Saretta. Con Asia ho voluto portare ai visitatori le bellezze, la mia visione sulle bellezze e sulle culture di diversi paesi asiatici. Lavorare per Asia è stato per me come respirare qualcosa di straordinario, dal mistico al materialistico, dalla purezza della fede all'assenza di essa, dalla tecnologia più avanzata alla chiusura quasi compatta di certe culture e di certe, diciamo, tribù. Per me l'Asia è proprio questa mescolanza di contrasti. L'esposizione fotografica si potrà visitare gratuitamente fino al prossimo 24 marzo, ogni sabato e domenica. La mostra sarà poi in tour in altre 10 città italiane fino a gennaio 2026. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora gli spettacoli con la musica. Torna a Trieste, ospite della Chamber Music, uno straordinario talento pianistico come Gil Bey, che stasera al Teatro Miela suonerà Bach, le toccate in do minore e in mi minore e i 28 preludi di Chopin. Nata in Olanda da genitori di origini sudcoreane nati a loro volta all'estero, ha tenuto il suo primo concerto a 5 anni e vive in Italia da quando ne aveva 8. Una vita per la musica classica la sua, anche se, ammette, può imporre grandi sacrifici, ma ne vale la pena. Ecco come l'ha raccontato a Pif, che l'ha intervistata per il suo programma Rai, Caro Marziano. Questo lavoro da pianista è piuttosto solitario, studi da sola e mi ricordo anche una volta sono andata a fare un concerto a Trieste e dopo il concerto, che è andato molto bene, sai, gente che applaude, fai magari bistris, un grande successo, vai a cambiarti e quando sono uscita ero completamente da sola nella piazza. Cioè punti tutto su quel momento di gloria, ore e ore e ore di lavoro per suonare davanti alla gente e sì, dai emozioni, però alla fine ti trovi da sola. Questi sono momenti che ti fanno pensare di magari voler cambiare mestiere. Però non l'hai mai fatto? Evidentemente no, sono ancora qua. Cioè tu quando parti, anche quando vai in vacanza, devi sapere che c'è un pianoforte a disposizione. Sì, cerco sempre di avere comunque una tastiera ovunque vado. È come un atleta, no? Non puoi stare un mese senza correre. È un fatto muscolare. Cioè io se non suono per una settimana sento le dita rigide. Tra gli spettacoli di oggi da segnalare l'Otello da Shakespeare rivisitato da Yuri Ferrini, che sarà in scena a Pontebba al Teatro Italia alle 21. Domani lo spettacolo sarà a La Tisana al Teatro Odeon. Siamo allo sport con il biathlon. Al via i mondiali a Nové Mesto in Repubblica Ceca. La sappadina Lisa Vittozzi sarà subito impegnata con la staffetta mista azzurra. È stata scelta come ultima frazionista nella gara che comincerà alle 17.20 con diretta televisiva su Rai Sport HD. Oltre a Vittozzi, l'Italia schiererà Didier Bionas, Tommaso Giacomel e Dorothea Wierer, quartetto che in questa stagione è già salito due volte sul podio in Coppa del Mondo. Atletica leggera, il cubano Luis Zayas e la lituana Irina Palsita hanno vinto le gare maschile e femminile rispettivamente al meeting Udin Jump, la manifestazione di salto in alto ideata dallo scomparso atleta udinese Alessandro Talotti. La gara è andata in scena ieri al Palabernes. Il caraibico ha saltato 2.26 aggiudicandosi la gara per il secondo anno di fila, mentre la baltica ha valicato l'asticella a 1.88 m. Calcio, come era nelle previsioni, il giudice sportivo della massima serie ha squalificato per un turno il capitano dell'Udinese Pereira. Il giocatore, già diffidato, era stato ammonito domenica durante la partita con il Monza e salterà dunque la partita di lunedì sul campo della Juventus. Anche nella Juventus, fermo per un turno il capitano Danilo. Un grazie all'esonerato Tesser, ma anche la sottolineatura che i 13 punti raccolti nelle ultime 9 gare non erano in linea con gli obiettivi della società di salire di categoria. Sono state le parole dei vertici della Triestina ieri alla presentazione del nuovo allenatore della squadra, l'ex giocatore alabardato e ex allenatore anche, Roberto Bordin. Sentiamo le sue prime parole in questo servizio. Roberto Bordin ha giocato con la Triestina nella stagione 98-99 in Serie C2 e ha allenato la squadra nel 2016 in Serie D, salvandola dalla retrocessione. Negli ultimi anni ha lavorato in Moldavia sulle panchine dello Sheriff Tiraspol e della Nazionale. Sentiamo Roberto Bordin. Gli obiettivi della società ovviamente sono quelli di salire di categoria, perché hanno fatto degli investimenti veramente importanti e quindi io sposo in pieno quella che è la loro idea. Sono venuto qua appunto perché è una società ambiziosa, vuole vincere e io voglio vincere con loro ovviamente. Bisogna ritornare appunto ad essere vincenti e cercare di rosicchiare qualche punto per arrivare intanto e puntare il secondo posto che dove c'è il padre in questo momento. Nella prossima partita venerdì sera la Triestina, che è al terzo posto con 46 punti, affronterà fuori casa la capolista Mantova, che ha 57 punti. Giochiamo contro la prima in classifica, che probabilmente ha meritato di essere lì, in casa loro, davanti ai loro tifosi, però vogliamo giocare sicuramente la nostra partita e fare bene. Trieste, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Una mostra e un libro per ricordare i 40 anni dalla scomparsa di Stefano Furlan, il ventenne tifoso della Triestina che morì dopo gli scontri con la polizia seguiti al derby di Coppa Italia con l'Udinese. La mostra è stata allestita al magazzino 26 del Porto Vecchio e sarà inaugurata oggi alle 17. Si potrà visitare poi fino al 1 aprile. Domani un convegno con i rappresentanti di una quarantina di tifoserie italiane ed estere precederà la commemorazione a Valmaura nell'anniversario esatto dell'episodio di quella partita. Stefano Furlan morì dopo 20 giorni di coma il 1 marzo e in quella data sarà presentato un libro che ricostruisce la vicenda. Alle 7.46 la nostra rassegna stampa. Case assicurate solo il 7%, e questo è il titolo scelto oggi per l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. La regione stanzia 5,5 milioni per incentivare la stipula di polizze contro i danni del maltempo. Due richiami sono per l'economia, con la nuova legge regionale su commercio e turismo e la multi-utility era che a Udine si è aggiudicata all'asta 56.000 utenze domestiche. Al centro pagina, accanto a una foto dedicata alla prima serata del Festival di Sanremo, la cronaca cittadina con tre titoli: le nuove regole per la ZTL di Udine, che comprenderà anche Piazza San Cristoforo, le 1000 trappole antitoppi installate sempre a Udine e la chiusura del pontile del Faro Rosso a Lignano per i lavori che sono fermi. A fondo pagina, per lo sport, il ricordo di Alessandro Talotti a Udine Jump e Lisa Vittozzi sempre più protagonista ai mondiali di biathlon. Nelle pagine di economia aspetta solo la firma della presidente Meloni il ricorso alla Commissione Europea contro la chiusura da parte dell'Austria del valico del Brennero ai mezzi pesanti, che penalizza anche il Friuli Venezia Giulia. Sull'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto a cambiare sono solo i richiami di cronaca locale, che sono tre. Ex fiera, divieti ignorati e auto parcheggiate ovunque, prese di mira dai vandali le lettere di Pordenone Legge in piazza Portello, cade e muore mentre sta installando una gru in un cantiere in Piemonte. Era un 65enne originario di Erto. Un report dell'Agenzia del Farmaco sui costi della salute è il tema scelto dal Piccolo per l'apertura. Aumenta la spesa per i medicinali, boom di ansiolitici in regione, 663 milioni all'anno. Per i farmaci crescita del 7%, ovvero 122 euro a testa. Lo spreco è al 30%. Di spalla, in prima pagina, c'è il Festival di Sanremo, la maratona di Amadeus, questo è il titolo, nella notte dei 30 big, e poi ampio spazio all'iniziativa dell'ONU per la giornata delle scienziate, con una doppia pagina sui volti della ricerca, volti naturalmente femminili a Trieste. Nella cronaca locale, tra i temi, i parcheggi scontati per i turisti grazie all'intesa fra gli albergatori e Saba, la società che gestisce gran parte degli stalli blu, speciale sul Carnevale di Muggia, e poi un servizio sul primo giallo ispirato al caso Resinovic. Lo ha pubblicato un architetto ligure che il Piccolo ha sentito per un pezzo di cronaca. Infine, la prima intervista con il neo allenatore della Triestina, Bordin, serve serenità, sintetizza il titolo. Sull'edizione di Gorizia, le iniziative per il giorno del ricordo, una targa per Norma Cossetto sarà posta al Liceo Dante dove si diplomò. Poi la morte dell'architetto Giorgio Picotti, che progettò Piazza Vittoria come oggi, e da Monfalcone la questione dei centri islamici. Oggi, come abbiamo sentito dal nostro notiziario, il TAR si pronuncia sulla sospensiva. Il Gazzettino, dorso di Pordenone, titola sulla grande fuga dei giovani dal Friuli. In un anno hanno lasciato la regione più di 2.000 ragazzi. Per trattenerli, secondo il presidente del consorzio universitario di Pordenone, bisogna pagare stipendi più alti. A centro pagina, in una fotonotizia, l'annuncio dell'assessore comunale alla polizia locale Ceolin: aumenteremo le multe per eccesso di velocità. E poi l'incidente sul lavoro in Piemonte, in cui ha perso la vita il 65enne di Erto, precipita dalla gru e muore sul colpo. Per la cronaca, a Chions un uomo minaccia la ex: è meglio se ti compri una bara, mentre a Zoppola il comune non ha soldi per le rotonde per mettere in sicurezza la statale 13. Per la cultura, infine, San Vito Jazz punta sulle donne. Sul dorso di Udine del Gazzettino, a centropagina, la sentenza del TAR di Trieste che ha condannato la prefettura di Udine per la cittadinanza negata a una ragazza a causa di un errore di battitura. In una fotonotizia, individuato un nuovo caso di peste suina e allarme. Per la politica, lo scontro maggioranza-opposizione dopo il varo delle nuove regole sulle circoscrizioni, e per lo sport un'intervista al doppio ex Gianni Chedda, che dice: udinese a Torino serve coraggio. Segnaliamo un appuntamento di oggi al via tra Udine e Gorizia, il percorso di formazione per ragazze e ragazzi che tra i 16 e i 24 anni, per organizzare e comunicare il teatro e l'arte contemporanea. Si chiama Visioni Future 2024, è gratuito e durerà fino a maggio. Al termine di questo corso sarà possibile partecipare attivamente ad alcuni dei più importanti festival e rassegne del territorio regionale. Durante i moduli si parlerà di teatro, di arte, di performance e installazioni. È previsto anche un modulo sull'organizzazione degli spettacoli e l'utilizzo dei social network per promuovere e raccontare eventi, artisti e backstage. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda subito dopo il GR1 delle 11, con le anticipazioni sui programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Alle 11.10 il programma in friulano si occuperà della protesta degli agricoltori. Alle 11.20 andrà in onda A Volo Radente. Tra i temi, le truffe al telefono, un progetto per italiani all'estero o discendenti di italiani interessati a conoscere il nostro paese, e il percorso di studi sulle nuove tecnologie per il Made in Italy all'Istituto De Ganutti. Infine, spazio al progetto All-In in gioco per la legalità. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Daniele Lettig, Eva Ciuc e Giampaolo Mauro. Coordinamento tecnico di Federico Comar e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Sono le 7.51, vi lasciamo alle informazioni su traffico e viabilità regionali. Vi ringraziamo per l'ascolto, l'appuntamento è per le 12.30. A tutti grazie e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.